guarda pure tu, stanotte fammi un po' di compagnia, forse ti scoprirò sporca di un vizio in più sotto quel trucco da periferia. Specchio dei giorni tu, nelle tue mani io, amante che non lasci andare via. Quando l'alba sbadiglierà, abbracciati ritroverà un poliziotto, una città, un amore che non si sa, una complice intimità. Un poliziotto, una città. Età, vene di un corpo che eccita, inganna nudo sotto un velo, ma non si arrenderà un uomo dentro te, come due torri può sfidare il cielo. Donna che vive i problemi suoi, e qui a tradirla resteremo noi. Quando l'alba sbadiglierà, abbracciati ritroverà un poliziotto, una città, una complice intimità. Un poliziotto, una città. Da secoli oramai, dotta di proletari e di mistero, ma ti rimpiango già, rossa puttana che, guardando ad est, strizzavi l'occhio al clero. E la tua vita va, anche se un po' di te, fermo alla tua stazione, resterà. Quando l'alba sbadiglierà, abbracciati ritroverà un poliziotto, una città. Complice intimità.